E questo è Gel, Truce Clan, ascoltate merda, Sonny primogenito, Boombox Fossano City, la città della barale, io sono un animale, bella regala, armata delle tenebre che schiaccia i toys, pompa sta roba, Sonny primogenito, Truce Boys, Roma.